Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti, da Olga e Frey. Inoltrandoci in questo maggio 2018, non potevamo anche noi non parlare di un anniversario molto importante, cioè quello del 1968. Avevamo già avuto però, se ricordate, una bella anticipazione il 4 marzo per i 50 anni di Valle Giulia, in cui avevamo confezionato una puntata sui giornali dell'epoca che parlavano appunto di Valle Giulia, di come questo episodio importantissimo sia stato il battesimo di fuoco del movimento del 1968. Quest'anno, per questo mese, per entrare nel vivo del cinquantennale, come prima puntata abbiamo scelto, come avevamo già scelto per quella del 77 e per quella di ottobre della rivoluzione russa, di farvi una panoramica dei giornali generalisti che hanno parlato fino adesso del 1968, come ne hanno parlato, come ne hanno discusso e cosa e chi ha scritto rispetto a questo anniversario molto importante. Allora sì, prima di entrare in questo tema di oggi, volevo fare una segnalazione che ci è stata fatta da un nostro ascoltatore, Fabio di Ancona, che ricorda che sulla pagina Wikipedia dedicata alla battaglia di Valle Giulia è in atto un'operazione probabilmente simile a quella che i Wuming hanno sbugiardato a proposito del fronte orientale, cioè ci sono attivisti di estrema destra che ci mettono le mani per andare a recuperare un certo tipo di memoria, tant'è che emerge molto forte il contributo dato dall'estrema destra a questa battaglia, un contributo più o meno reale, più che meno mitizzato da parte dell'estrema destra. Comunque entriamo invece nella puntata di oggi, rassegna stampa di quello che oggi si sta dicendo a proposito dell'evento 68. Allora, gli articoli sono stati molti, noi ne abbiamo selezionati solo alcuni, perché è un dibattito che è molto ricco e anche interessante tutto sommato. Vi presenteremo quelle che sono le linee guida di questo discorso presentandovi mano a mano gli articoli. Comunque, molto banalmente, le possiamo riassumere in questa maniera. Abbiamo articoli che emettono una condanna senza possibilità di soluzione nei confronti del 68. Perché? Perché è l'annus horribilis che ha generato l'odio e la violenza di piazza che poi hanno prodotto il terrorismo. Naturalmente questo va letto molto anche alla luce dell'importante anniversario che è accaduto in questi giorni, cioè i 40 anni dall'omicidio Moro. Quindi chiaramente l'omicidio Moro getta un'ombra su tutto quello che è avvenuto prima. Poi una soluzione, diciamo, con riserva, perché malgrado le follie della sinistra extraparlamentare divisa fra maoisti e marxisti leninisti dell'epoca, ci sono state delle battaglie giuste. Poi ci sono gli entusiasti che ricordano il 68 con un pizzico di nostalgia e quanti come noi che cercano di guardare il momento 68 come un fenomeno che va compreso meglio. E qua, anche da questo punto di vista, ci sono degli elementi molto, molto interessanti. Iniziamo il nostro percorso da una filiazione di chi dà una soluzione con riserva del 68, perché molti dicono il 68 è stato importante, da quell'esperienza sono venuti dei passaggi importanti che hanno influito in maniera radicale sul cambiamento del costume, sul cambiamento della società italiana e della società europea in generale. Partendo da questo punto vi proponiamo una lettura dal quotidiano cattolico L'Avvenire. Lo citiamo spesso perché nella sua pagina culturale L'Agorà propone delle riflessioni che sono molto interessanti. In questo articolo, firmato da Vincenzo Rosito, si riprendono le parole del cardinale Carlo Maria Martini, che racconta il 68 come un pungolo, tant'è che l'articolo è il 68 pungolo del Novecento. Oggi, a distanza di 50 anni, è giusto dire che il 68 è prima di tutto degli studenti e che si è consumato principalmente nelle università, se questa collocazione spaziale e simbolica non comprime il dinamismo di quegli eventi nella sola istituzione accademica. Nell'alleanza inedita tra contestazione studentesca e protesta operaia si intravede ancora oggi il desiderio di un'umanità indivisa, la postura di uomini e donne in cammino, poiché persone in formazione, qualsiasi sia il loro status anagrafico, sociale, economico e professionale. Continua Martini. La formazione come retroterra vitale della partecipazione civile e politica, la formazione come nutrimento di consapevolezza negli affetti e nelle relazioni sociali. Tutto questo non è eredità del 68, ma sporgenza e monito nell'universo simbolico di quegli anni. È un'intuizione lucida e collettiva che non ha smesso di lavorare, malgrado molti soggetti e poteri ne abbiano contrastato il passo. Significativamente Martini, riflettendo sui tratti culturali del 68, non parla di valori o di principi, ma parla di pungoli. Infatti continua: in quegli anni la tensione alla povertà fu fortissima e diede luogo a nuove esperienze, a nuove comunità, a nuovi modi di vita. Alcuni sono falliti, ma il pungolo era reale e sano. Continua ancora: ricordo ancora quanto fosse sentita la percezione che, anche straniandosi da ogni interesse politico, si operava una scelta politica, un pungolo drammatico che costringeva tutti ad una scelta. Ovviamente questa istanza veniva esasperata, faceva della politica l'unica cifra interpretativa, però faceva uscire da una forma di cristianesimo privato. Prima di continuare con gli articoli, noi ci sentiamo qualche canzone. La prima che abbiamo scelto per questo viaggio è Un viaggio nel viaggio, perché abbiamo scelto alcune canzoni del 68 che rappresentano il 68 e che sono uscite nel 68. Una di queste, un fatto anzi importante per la musica, è che Syd Barrett, il leader dei Pink Floyd, proprio in quest'anno esce dai Pink Floyd per problemi personali. Un paio d'anni dopo registrerà un bellissimo album che si chiama The Madcap Laugh. Noi ci sentiamo uno dei singoli estratti, che è Terrapin. I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you. Yes, I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Below the pole that's hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, a move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Good for us. dishes and all we do. The move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on and about you. Bene, eccoci tornati, stiamo proseguendo nella nostra rassegna stampa su quello che dicono i media, quello che dice la carta stampata sul 68 in questo 50° anniversario, e andiamo a vedere quello che è una critica del 68. È un qualcosa di molto interessante questo, perché è un discorso pubblico che in passato non era presente in Italia, ma che sta entrando adesso. Stiamo parlando di un dibattito che si era molto sviluppato in Francia. Sapete che in Francia il 68 è stato veramente un qualcosa di generazionale, la rottura di una società e la creazione all'interno di quel movimento, di quella elite intellettuale che ha dominato poi il dibattito pubblico e politico negli anni a venire. Sull'onda di questo discorso si è venuto a formare una critica del 68 proprio per ciò che ha prodotto, ovvero per l'uccisione del padre a livello simbolico, per la critica all'autorità delle istituzioni, quella scolastica e quella familiare sopra ogni altra cosa. Per cui oggi abbiamo tanti come Houellebecq, Michel Onfray, che passando da una critica di sinistra, fra virgolette, al neoconservatorismo di fatto, hanno iniziato a proporre un attacco nei confronti del 68, una cosa che è molto di moda per l'appunto in ambienti di destra e neoconservatori. Perché? Perché attaccano il 68 come radice del male presente, quindi tutte le problematiche che conosciamo a livello sociale e culturale, la decadenza dei costumi sedicente, la scomparsa dell'autorevolezza, le problematiche legate alla genitorialità sarebbero figlie del 68. In Italia, al fiere di questa battaglia, diciamo, si fa il foglio di Giuliano Ferrara, in cui che pubblica due articoli di Giulio Meotti, quell'orribile 68 del 12 marzo, in cui definisce il 68 il nuovo 1939 per l'Occidente, quindi fissiamo questa data, e infine un articolo uscito il 1 maggio in cui viene accusato il 68 di aver fatto tramontare 1000 anni di cultura, di cultura e tradizione giudaico-cristiana. Niente po' di meno, come si dice. Essendo sponsor del neoconservatorismo, noi non li leggiamo. Vi proponiamo invece una riflessione sul passaggio generazionale dal 68 ad oggi, che è uscita sull'Espresso del 10 dicembre del 2017 a firma di Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, che si intitola Un 68 alla rovescia. È indubbio che l'estensione del voto ai diciottenni, votata ieri alla Camera, sia anche conseguenza della lotta iniziata con la contestazione del 68-69, commentò in prima pagina l'8 marzo 75 La Stampa, che riportava anche un discorso del presidente del Consiglio in carica, Aldo Moro. La politica dovrà riuscire a parlare con i ragazzi di 18 anni, rispettando il patrimonio di verità e di speranza che questa età creativa porta in sé. In quei giorni sui giornali c'era la notizia che la produzione industriale era precipitata a meno 14% rispetto all'anno precedente, una crisi drammatica, eppure i ragazzi non sembravano avvertirla. I debuttanti al primo voto alle amministrative del 75 furono 3 milioni e scelsero per il cambiamento. L'effetto fu il più imponente spostamento a sinistra dell'elettorato nella storia repubblicana, con il PC di Enrico Berlinguer al massimo storico dei voti. Ora siamo alla vigilia di un nuovo voto. Nell'anniversario dei moti sessantotteschi vanno a votare i nati negli anni 2000. Ritorna la famiglia come principale fonte di informazione e di influenza sui ragazzi. I primi punti di un'ideale agenda politica sono la crescita economica e la lotta alla corruzione. Un mix di sviluppismo e legalitarismo che non è esattamente chiedere l'impossibile. I diritti civili o l'uguaglianza delle opportunità arrivano molto dopo, come lo ius soli e la chiusura delle frontiere. C'è lo scarso entusiasmo sulle preferenze elettorali e la tentazione fortissima di disertare le urne, di non andare a votare neanche per la prima volta. In pratica, ci dice Marco da Milano, che continua, è un 68 alla rovescia e per una volta i diciottenni non appaiono né come ribelli desiderosi di uccidere padri e di rottamare la generazione precedente e neppure come apatici, sdraiati, indecifrabili per i loro genitori cresciuti nell'età dell'impegno. Più che denunciare la disaffezione degli zero, c'è da rallegrarsi che in questa situazione resista ancora una riserva di spirito civico. Continua il nostro viaggio sulle note del 1968. In quel 1968, nelle hit parade italiane di quel periodo, c'è una canzone che conoscono tutti. È cantata da un cantautore medico ed è una canzone contro l'esclusione, quindi in piena scia del 68. Noi ci ascoltiamo Vengo anch'io, no tu no, di Enzo Iannacci. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Eccoci, stiamo proseguendo nel nostro viaggio all'interno degli articoli sul 68 che sono usciti fra l'anno scorso, fra la fine del 2017 e il 2018, e andiamo infine ad analizzare quella che è l'ultima posizione, una delle ultime posizioni che abbiamo riassunto fra le varie: condanna, assoluzione con riserva e riflessione. Noi naturalmente siamo più dalla parte della riflessione, è evidente, perché cerchiamo di capire la complessità di un fenomeno storico. Fra i tanti elementi nuovi che sono emersi con questo 50° anniversario del 68 c'è l'attenzione alla dimensione internazionale e transnazionale del fenomeno 68. Prima di tutto questa attenzione si è spostata verso il 68 dei paesi dell'est, se ne è sempre parlato, la primavera di Praga naturalmente parla da solo, però diversi sono stati i focolai e in questo senso lo speciale del manifesto Primavera in gennaio, uscito il 23 gennaio, è molto interessante perché argomenta molto bene l'esperienza della primavera di Praga, del 68 cecoslovacco. Poi anche sono usciti diversi libri, uno su tutti quello di Guido Krajnc, il 68 sequestrato, dedicato a Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia nel 68, ed è un libro edito da Donzelli, un po' costoso ma ve lo suggeriamo. Noi siamo andati a prendere un articolo che prende una bella piega, che è questo articolo di Pedro Monaville, il 68 speciale del Congo. È un articolo che nella versione cartacea di Internazionale è uscito nel 2016, ma che potete trovare tranquillamente sul web, dal sito dell'Internazionale. Poi lo troverete segnalato, fra le altre cose, sul nostro sito internet www.radioballoon.info. L'articolo di Pedro de Monanville prende il via dalle proteste che si svilupparono nei confronti del vicepresidente Humphrey, il vicepresidente statunitense, che fra il 67 e il 68 compì diverse missioni internazionali, e ogni sua visita fu una grossa contestazione nei confronti dell'imperialismo statunitense. Perché? Perché sono gli anni del Vietnam, per cui il Vietnam, ricordate, e qui Monaville presta molta attenzione, perché ci si dimentica il fatto che uno degli elementi forti del 68 fu proprio l'antiimperialismo e la solidarietà col Vietnam. E dice Monaville che il 68 ci fu anche in Congo. Perché? Perché anche in Congo si celebrava, si viveva quel momento di esplosione collettiva e di critica all'imperialismo, critica all'imperialismo statunitense, che anche i giovani europei vivevano. Leggo dall'articolo. Anche a Kinshasa, la capitale congolese, dove Humphrey trascorse alcuni giorni all'inizio del gennaio del 68, la sua visita scatenò la rabbia dei giovani. Come i loro compagni nel resto del mondo, gli studenti congolesi consideravano Humphrey responsabile dell'interventismo statunitense in Vietnam, e non solo. Inoltre, venendo a Kinshasa, il vicepresidente aggiungeva al danno la beffa. Per gli studenti congolesi, il governo statunitense era infatti uno dei principali istigatori dell'assassinio di Lumumba. Rispondendo a un appello dell'Unione degli studenti congolesi, 300 manifestanti si riunirono vicino al monumento di Lumumba, gettarono ortaggi contro il corteo ufficiale di macchine, bruciarono la bandiera degli Stati Uniti e intonarono slogan in difesa del Vietnam. Gli studenti congolesi si ispirarono all'attivismo dei loro compagni in altri paesi africani e in altri continenti per organizzare il loro attacco al governo, e al tempo stesso unirono le loro voci alla rivolta globale contro l'imperialismo. La visita di Humphrey a Kinshasa dimostra anche un'altra cosa, cioè che i giovani africani presero pienamente parte al 68 globale. Nella memoria e nella storia del 68, il Terzo Mondo e l'Africa occupano una posizione paradossale. Ancora oggi le narrazioni di quell'evento globale sono plasmate soprattutto dalle esperienze occidentali, dalle proteste a Parigi, a Roma, Berlino e New York. Non si ricorda quasi mai invece che gli studenti del Terzo Mondo seguirono gli stessi percorsi di radicalizzazione in America Latina, in Asia e in Africa. Inoltre, viaggiando tra i loro paesi d'origine e le università europee e nordamericane, contribuirono in modo fondamentale alla circolazione globale delle energie e delle influenze politiche. A ottobre del 1968 esce uno degli album che rivoluziona la storia della musica, sicuramente del Novecento. Questo album si chiama Electric Ladyland ed è, come sappiamo bene, di un impazzito Jimi Hendrix. Noi ci sentiamo un pezzettino della mitica Voodoo Child. Oh, Bene, dopo aver sentito Jimi Hendrix, andiamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa. Citiamo purtroppo per noi un articolo dal Foglio, che però ci è sembrato abbastanza utile perché racconta in maniera scherzosa il sentimento di nostalgia che gira attorno al 68, fra virgolette. L'articolo si intitola 1968-2018, manuale di conversazione, come fare bella figura senza necessariamente sapere quel che si dice. È un articolo del 13 aprile a firma di Andrea Ballarini, copywriter esperto di advertising, come lui stesso si definisce. E inizia così: raccontare ai propri figli diciottenni le gesta universitarie di quando si aveva la loro età, riuscendo a non sentirsi dei reduci di Vittorio Veneto, è finissima voluttà da coltivare con amore. Da noi il 68 è arrivato nel 69, convenirne. Non avere mai scordato una ragazza che si è tentato di baciare durante il primo anno di università, che per esimersi dall'incombenza vi aveva detto che innamorarsi era un atto di conservatorismo borghese, dolersene. Ricordare che al liceo c'era una fantomatica lega per la quinta internazionale e che si ironizzava sul suo nome perché si diceva che in tutta Italia fossero in totale solo 5 i membri effettivi. Rievocare con gli occhi lucidi le notti di occupazione dell'università in cui nacquero numerose storie d'amore. Tutte finite male. Siate realisti, chiedete l'impossibile. L'immaginazione al potere, vietato vietare, sotto i San Pietrini c'è la spiaggia. Però bisogna ammettere che sul piano della comunicazione i francesi non si battevano. Per tutti gli anni 70 e 80 avere trovato gli intillimani di una noia insostenibile. Non avere ancora pienamente superato il senso di colpa. Grazie Frey per questa ultima battuta sul 68. Io chiudo velocemente segnalandovi qualche opuscolo che è uscito sul 68. Cominciamo dal Manifesto, che da gennaio ristamperà per ogni mese del 2018 un opuscolo che venne già ideato e stampato per il ventennale. È un 1968 a puntate e possiamo trovare per esempio la cronistoria per ogni mese, un opuscolo ricco di immagini, di commenti, di articoli dell'88, di articoli dell'epoca. Ancora rimanendo sul Manifesto, è uscito ad aprile, ma dovrebbe esserci ancora in edicola, un bello opuscolo, questa volta originale del 2018, che si chiama Il 68 delle donne. Il 68 raccontato in 18 storie, dalla scrittrice Lidia Ravera, la direttrice del Manifesto Norma Rangeri, Allea Melandri e Luciana Castellina. Il 68 diventa in pratica un fil rouge di testimonianze delle protagoniste dell'epoca. Sempre per gli opuscoli, internazionale, come aveva già fatto per la rivoluzione russa, ricorda il 68 con un'edizione speciale, in edicola dal 18 aprile, anche questa a puntate, che raccoglie gli articoli dei giornali europei dell'epoca, da Le Monde con l'intervista mitica di Sartre al leader degli studenti francesi Daniel Cohen-Bendit, ai sondaggi d'opinione del Der Spiegel, per far capire ai lettori dell'epoca chi erano e cosa volevano gli studenti. Bene, per oggi siamo arrivati in fondo e grazie per la vostra attenzione e l'appuntamento è naturalmente la settimana prossima, sempre sui 103.1 FM. Per riascoltare la puntata e per riascoltare quelle passate potete recarvi al sito www.radiovallun.info e buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao.